avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur oggi mon front brûlant. Mi è venuta voglia e desiderio, ma lo sento anche come un imperativo categorico, di riparlare del terremoto dell'Aquila. Avrete visto sui giornali qualche rapido accenno, fuggevole accenno, al fatto che siano passati 2 anni da quella notte del 6 aprile 2009, quando alle 3.32, con una magnitudo pari a 5.9 della scala Richter, è accaduto qualcosa che ha svegliato anche molti di noi che vivevano molto lontani. Io ricordo quella notte, cominciò a tremare casa mia, mi misi su Facebook, ancora chi guarda le pagine di quei giorni ritrova, e cominciai a dare alle persone che non si rendevano bene conto cosa stesse accadendo rapide notizie, cogliendole qua e là, telefonando agli amici e le amiche. Io avevo una casa all'Aquila, vicino all'Aquila, pochi chilometri, in un posto in montagna, una casa a cui volevo molto bene, era la casa che avevo preso, messo a posto, costruito, ristrutturato quando i miei figli erano piccoli, ci scappavamo i fine settimana, era un po' la mia seconda dimora, ma anche in senso elettivo. Andavo lì quando non venivano i romani invadevano quei posti nei periodi comandati, cioè quando ci sono le settimane bianche, sotto Pasqua, agosto, c'era una burineria imperante, e io fuggivo, andavo ad altre parti. Ma era bellissimo negli interstizi intermedi, quando nessuno andava a fare il turista, era un posto fantastico. Beh, sono passati 2 anni. Questa casa che con il batticuore andai a vedere il giorno dopo il terremoto, sarà caduta, sarà crollata. Ricordo ancora, salivo lungo questo paesino diroccato con i pompieri, la protezione civile, la gente che scappava. Volevo andare a vedere casa mia, non si poteva entrare perché era zona rossa. Svicolai tutti i controlli e quando vidi che la casa è ancora in piedi, telefonai subito a mia moglie, dicendo ancora c'è. Mi sembrava impossibile, da fuori era perfettamente integra. Sono entrato dentro c'era naturalmente crepe sui muri, segni del terremoto, ma era una vecchia casa dell'Ottocento, aveva ben resistito, era soltanto caduto per terra un mio pinocchio di legno, e dissi che bello, la casa non è crollata. Fatto il debito pensiero a tutti quelli che la casa hanno perduta del tutto, tutto sommato dissi, beh, adesso me la rimetto a posto subito, e ero ben deciso a rimettermela a posto. Avevo fatto i conti, non ci voleva mica molto. Si trattava di chiamare un muratore, mettere a posto qualche crepa, fare un piccolo progetto. Sono passati 2 anni, non sono riuscito ancora a fare niente. La casa mia è ancora lì, immobilizzata, impietrita come era esattamente quella mattina. E quindi oggi vorrei parlare di ciò che sentono gli aquilani a distanza di 2 anni. Non voglio entrare nello specifico della ricostruzione, come è stata fatta, chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, non perché voglia glissare, voglia sfuggire o voglia mantenermi su una posizione comoda, senza inchiodare nessuno alle sue responsabilità, solo che non è questo lo spazio, non è questo il momento, non ho gli strumenti e non ho nemmeno gli interlocutori questa mattina. Ho visto, letto, mi sono documentato, ho seguito, ho visto il film della Guzzanti che dà una lettura molto politica alla ricostruzione, con sprazzi di profonda e sincera osservazione coerente di quelli che sono stati i giorni immediatamente seguenti al sisma. Leggo oggi sui giornali lo sconcerto di Rita Dalla Chiesa, che in una di quelle terrificanti maniere di essere più realisti del re stesso nel programma Forum hanno chiamato una povera sbombardona che ha finto di essere una terremotata felice dell'ottima ricostruzione, facendo un autogol tremendo. Lasciamo da parte tutti questi episodi e questi elementi legati alla fattispecie concreta della ricostruzione. Mi sembra averla già abbastanza sintetizzata nella mia storia personale questa mattina. Ma qual è il clima e il tempo che si respira all'Aquila? Da allora sono accadute molte cose. È accaduto il terremoto, lo tsunami, il terremoto in Giappone, che sembrava aver sovrastato emotivamente la tragedia di qualsiasi altra tragedia nazionale possibile, ma in capo a 10 giorni già è scomparso praticamente dalle prime aperture dei giornali. C'è stata la guerra in Libia. Vi parlo delle più recenti occasioni di riflessione sui disastri, sulle angosce collettive. Anche della guerra in Libia è rimasto solo la coda lunga, lo strascico dell'immigrazione a Lampedusa, reale, concreta, amplificata, strumentalizzata. Non ci interessa. Ma questa mattina, chi mi ascolta a quelle latitudini, chi 2 anni fa chiamava questo microfono la mattina per raccontare quello che stava accadendo, lo sconcerto, la paura, il disastro, che tempo sta vivendo? Qual è il clima? Com'è il tempo all'Aquila? E chi sta fuori come ricorda e cosa prova a sentir dire che 2 anni fa c'è stato qualcosa che sembrava aver accomunato tutte le coscienze nazionali su una tragedia che era un po' una tragedia di tutti? 800 24 00 24. 3:32 del 6 aprile 2009. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter colpisce l'Aquila e la sua provincia. L'epicentro è ad Arischia, alla profondità di 2 chilometri. La frazione di Onna è fra le più colpite. Il 70% delle sue abitazioni sono rase al suolo. I vigili del fuoco stanno tirando sulla tenda verde. In questo caso lo sappiamo bene che cosa succede. Vuol dire che stanno estraendo evidentemente qualche corpo senza vita. Aspetta. C'hai le gambe bloccate, eh? Quando la tragedia è vicina alle coscienze, quando poi le cronache toccano i punti più nevralgici della sofferenza, del sentimento comune, del fatto che attraverso i media sembra di vivere in diretta una tragedia, è molto facile essere emotivamente partecipanti. Oggi è un pochino più difficile, vedo che stentatamente i giornali cercano di tenere il passo, di dare un senso alla giornata. In fondo 2 anni sono ben pochi, in fondo ci sarebbe ancora molto da dire. Ieri c'era una bella cronaca di Mattia Felt sulla Stampa, che era stato a vedere, e anche lui aveva avuto questa sensazione del tempo che si fosse fermato, o perlomeno si vivesse a quelle parti una qualità, una dimensione del tempo diversa da quella che si vive altrove. Oggi leggo sul Corriere della Sera l'apertura della pagina dedicata all'Aquila, dedicata al dramma, lo dico ironizzando, alla vicenda di Rita Dalla Chiesa, che insultano ai tavolini dei bar per aver portato la cicciona finta terremotata felice aquilana in televisione. Ma sotto ci sono soltanto 2 colonnini sui bambini che vivono ancora nei loro disegni l'incubo della scossa del terremoto. Ma si capisce che è un riempitivo, che è qualcosa che non tocca profondamente, non cambia profondamente. I bambini dell'Aquila saranno angosciati, probabilmente quelli che non erano troppo piccoli quella notte. Perché? Perché ancora la terra ogni tanto trema, perché vedere là dove c'era la città soltanto delle macerie è brutto, perché sarà radicalmente cambiata anche la vita dei genitori, delle persone che hanno intorno. Ma cosa sta accadendo all'Aquila? Cosa sentono gli aquilani? Questa è la domanda che vorrei questa mattina mi rispondesse chi mi sente in quei luoghi e in quelle circostanze, o chi semplicemente distrattamente ascolta la radio e dice: ah, vedi, sono passati 2 anni dal terremoto dell'Aquila. 800 24 00 24. Sono entrata oggi all'Aquila dopo un anno e praticamente l'aria che c'è è desolante, e io sono desolata proprio, c'ho proprio un gruppo di vuoto, mi manca l'aria. Sono entrata nella chiesa dell'Anime Sante, ma non è la realtà, manca mezza chiesa. E passeggiare nel silenzio dei tuoi passi in una città senza un cane, senza un gatto, senza una persona, senza una macchina, senza un motorino, senza una pianta, senza un fiore, è una città ideale. L'odore del legno, del legname che puntella i palazzi e l'odore delle... Gianluca, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Nulla, io non vorrei fare un intervento veniale, ma anch'io sono un proprietario di una seconda casa in L'Aquila, che è stata considerata inagibile in fascia E, e a tutt'oggi i lavori non sono stati iniziati perché ci sono dei cavilli tecnici comunali. Detto questo però, Gianluca, visto che lo considera veniale, quindi poco importante ai livelli della vita eterna, cosa può dire? Lei è in una situazione di immigrato temporale nella zona dell'Aquila, penso andasse per diporto, per turismo, per piacevolezza. Per lavoro. Ah, per lavoro. Per lavoro e mi ero comprato questa seconda casa. Ecco, al di là del problema pratico, abbiamo detto, cioè, esiste... Il problema pratico è che per acquistare una seconda casa, anche se è seconda casa, ho dovuto accedere a un finanziamento, quindi a un mutuo, che essendo seconda casa non è mai stato sospeso. Sì, ma la domanda mia era diversa, scusi, non è che voglio sfuggire, ma voglio sentire lei se riesce a dirmi qualcosa di diverso, oltre, immagino, il pesante, doloroso problema pratico, finanziario, economico. Il tempo... che lei vive quando va all'Aquila, il sentire delle persone dell'Aquila, vedere una città che in parte, perlomeno nella parte storica, nella parte più vissuta, è uno scheletro di macerie, di case ancora. Qual è la sua impressione in questo? Certo, sicuramente fa male perché se, anche se ho vissuto 2 anni e mezzo, diciamo, per lavoro lì, diciamo, ho interagito con l'ambiente, le persone e il territorio, e diciamo vedere anche attualmente una città che è ricoperta da tubi innocenti, cioè da impalcature e diciamo da strutture che non si evolvono in qualcosa di più concreto. Ecco, se lei potesse riassumere il suo sentimento, cos'è? Rassegnazione, fatalismo? Ormai ci si è abituati, ci si abitua a tutto, come a casa quando uno non si decide mai a riparare un rubinetto che perde. Io credo sia stato fatto tanto per aiutare le persone momentaneamente, quindi le hanno sistemate, sono state sistemate per fortuna almeno quello. Però diciamo adesso bisogna concretizzare un momento il discorso di rifar ripartire, di far ricostruire, di far sì che questa Aquila, tra virgolette, ritorni a volare. Ecco, perché voglio dire, l'aiuto alle persone che è temporaneo in una situazione anche diciamo non definitiva non può durare all'infinito, quindi adesso bisogna concretizzare gli interventi, diciamo, strutturali è chiaro. Gianluca, sentiamo Enrica, buongiorno. Buongiorno. 24 anni dall'Aquila. Sì, 24. Lei è aquilana? Io vivo a Roma da 3 anni, ma 4 anzi, ma sono nata e cresciuta all'Aquila. E quello che volevo riportare è il sentimento che hanno gli aquilani in questo periodo, che hanno avuto fin da subito, è stato quello della speranza di voler ricostruire, della speranza di andare avanti. Io mi ricordo quando tornavo, i miei genitori vivono lì, anche casa mia, noi siamo rientrati quest'estate dentro casa dopo un anno e mezzo, quasi 2 di lavori, e ricordo quando tornavo per le strade e vedevo tutte le persone che costruivano insieme queste casine di legno, era davvero emozionante. Diciamo la verità, le casine di legno è stato uno dei tanti motivi perché poi non si cominciasse a mettere mani seriamente nei centri storici. Il problema è stato che per ristrutturare il centro storico ci vorranno molti anni. L'Aquila è una città piena di palazzi, di monumenti. Ecco, ma secondo lei la sua idea, che c'è un'idea che sarà importante recuperare un centro storico, o l'idea dice costruiamo comunque, facciamo un'altra città e lasciamo il centro storico come una reliquia del passato? Lo sa, perché Navelli è una città vicino all'Aquila, famosa per lo zafferano e via dicendo. Una volta andai a visitare Navelli, è un bel centro storico, aveva un bel centro storico, la maggior parte del centro storico è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale e così è rimasto. Nessuno ha mai pensato di rimetter su, di ricostruirlo. Metà del centro di questa bellissima cittadina vicino all'Aquila è rimasta così. E chiedevo, dico, ma perché? Guarda che belle case, perché non l'avete mai rimessa a posto? Non si sa. Non vorrei che seguisse una sorta di onda emotiva per cui non si aspetta, si vede. A Navelli sono ancora le case scoperchiate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ma questo l'abbiamo, gli aquilani assolutamente vo- vogliono ricostruire il centro storico, e l'abbiamo visto con il popolo delle carriole, con tutte le manifestazioni che poi possono essere discutibili o meno, che ci sono state, ma si vuole ricostruire. L'Aquila non è una città come Roma, che ha tanti quartieri e tanti centri di ritrovo. Il centro di ritrovo dell'Aquila è uno, e per me vedere mio fratello, che è più piccolino, ha 17 anni, vederlo raggrupparsi con gli amici, ritrovarsi nel centro commerciale, che è una cosa di una tristezza inaudita. Pensare che io... Non è che sia triste, onestamente, io mi diverto molto. È uno luogo, sono uguali in qualunque parte del mondo. È un luogo. Può essere un'alternativa ai centri storici, ma non può essere l'unica alternativa, se no diventa veramente, sì, una condanna. È chiaro, andiamo avanti. Luisa Prajer, buongiorno. Buongiorno. Luisa Prajer è una pianista, una docente al Conservatorio dell'Aquila. È stata e tuttora direttrice artistica del Festival Pietre che Cantano, che è una delle cose più belle che c'era l'estate all'Aquila e dintorni. Troppo buono. Concerti di altissimo livello, con artisti che venivano da tutto il mondo, in piccoli luoghi semi sconosciuti, ma fantastici dal punto di vista architettonico. Chiese chiuse che per aprirle bisognava andare a chiamare una vecchia che ti trattava sempre male. Posti che in realtà erano poco incentivati al passaggio di turisti. Forse questo è stato anche un bene. Oggi cosa esiste dei luoghi in cui facevi Pietre che Cantano? Caro Gianluca, purtroppo è resistito poco. Noi andiamo avanti col festival, ma appunto dobbiamo proprio trovarli di nuovo, questi luoghi dove i concerti possono essere utilizzati. Ma il concerto è soltanto un simbolo, diciamo, una rappresentazione di qualcos'altro. Cioè, sì, perché di pietre ne hai quante ne vuoi, se volessimo. Ne hai quante ne vuoi, però il luogo d'arte, fare il concerto nel luogo d'arte significa poter godere di questo luogo d'arte. A me è piaciuto molto l'intervento della ragazza che ha chiamato prima, perché ha detto molte cose importanti e molto condivise, molto sentite. Io quel che trovo che è successo, non è vero che non è successo niente, è successo troppo, e cioè è successo che non si è coltivato più la bellezza all'Aquila, è successo che si è costruita... È una città che coltivava la bellezza. Usa e getta, Luisa, diciamo, prima del terremoto, senza fare colpe retroattive e tutto, ma coltivava la bellezza l'Aquila e dintorni. No. Ed è questo che ti volevo dire. Dobbiamo dirlo, perché io la conosco bene e volevo bene. Non era un posto in cui sembravano molto appassionati alla conservazione. Questo non dice che non per questo è giusto se è arrivato il terremoto. Bisogna distinguere, credo, però. E cioè, all'Aquila, premetto che per me il disastro dell'Aquila è uno dei più grandi disastri del patrimonio artistico mondiale. Su questo siamo d'accordo. Superiore all'Unione di Firenze come disastro del patrimonio artistico, perché l'Aquila, non tutti lo sanno, ma è una città ricchissima di monumenti e di opere d'arte. L'Aquila è tutto l'aquilano, perché tutto l'aquilano fondò l'Aquila nel 200, quindi ci sono monumenti ancora più antichi di quelli che stanno all'Aquila nel territorio circostante. Quindi questo è uno dei più grossi disastri del patrimonio artistico dell'umanità. Detto questo, la città paga lo scotto di una politica troppo disattenta alla valorizzazione delle proprie prerogative. E questa è una caratteristica di noi che ci andavamo per passione personale, lo avvertivamo, ma eravamo quasi contenti, così vengono meno turisti e stiamo meglio noi. L'Aquila moderna degli anni 70-80 non si è molto differenziata da altre periferie che purtroppo sono brutte in molte città d'Italia, ma che si era insomma sviluppata anche piuttosto ampiamente. Io penso quindi che per tutta la città dell'Aquila, ma non per incolpare quella lì, ma diciamo la società debba pentirsi di queste tendenze che ha lasciato così che si sviluppassero senza esserne pienamente consapevoli. Io vorrei dire una cosa, che secondo me l'esempio dell'Aquila è per tutti un esempio, perché questa tendenza, come dicevi tu, alla globalizzazione, al non luogo, è deludente, no? Certe volte viaggiare, vedi gli stessi negozi un po' dappertutto, è triste, dici ma allora io che sono venuta a fare fino a Parigi se poi trovo gli stessi negozi del centro di Roma, oppure quindi vedere scomparire quelle peculiarità dei luoghi quando si viaggia delude molto. E questo però per chi abita nei luoghi che perdono un loro connotato, significa anche non amare più quei luoghi, non sentirsi di appartenervi. Non ci sono legami profondi di appartenenza dati da una tradizione. Usa e getta, capisci? Il centro commerciale è un luogo usa e getta, quindi ti puoi anche divertire lì per lì. Dopo un po', però, che l'hai visto tante volte, ti sei anche stufato e non ci trovi nessuno. Puoi restare un attimo in ascolto, Luisa, userò ancora un po' il tuo tempo. Volevo però introdurre un ospite che so che dopo dovrebbe avere dei problemi. Paolo Dalla Ventura, buongiorno. Buongiorno a tutti. infatti. Ecco, finalmente un aquilano, lui vive all'Aquila da 12 anni, perlomeno un po' sì. più di noi, stiamo ancora raccontandola come la raccontano una città, i turisti stanziali, quelli che hanno deciso di metterci una seconda casa. Lei lavora per il quotidiano online ilcapoluogo.it. Sì, no, ilcapoluogodabruzzo.it, sì. Capoluogodabruzzo.it. Ecco, vediamo un po' se riesce a darmi una sua lettura più approfondita rispetto a quella di noi osservatori esterni del senso del clima. Il tempo dell'aquilano come è cambiato? Beh, il tempo dell'aquilano in realtà è un tempo tutto suo, nel senso che qualsiasi cosa sembra essersi un po' dilatata, no? Perché un po' è sempre stato così, diciamo la verità. Come? Un po' è sempre stato così. Hanno sempre avuto un tempo con una qualità profonda, ma con una dimensione in estensione molto dilatata. Beh, ma da due anni a questa parte in realtà è stata una cosa un po', come dire, coatta, perché certo. forzata, in quanto diciamo la vita si è smembrata in circa 25-30 nuovi aggregati abitativi, tra quelli che sono i siti dove ci sono i centri del progetto case e dove ci sono gli altri villaggi dei moduli abitativi provvisori. Quindi si è sparpagliata in tanti villaggi la vita del centro cittadino. Esatto, e quindi qualsiasi cosa, diciamo, ha assunto necessariamente una tempistica tutta sua, dovuta anche a questo e dovuto al fatto che, diciamo, anche l'asse viario si è spostato verso le due tre strade principali. Ecco, ma il senso dell'identità com'è? L'abitante di un centro, di un aggregato, comincia a sentirsi facente parte della popolazione di quell'aggregato o ancora c'è un senso comune, cioè apparteniamo tutti a una ex città? Ma diciamo molto dipende anche dalle persone, comunque in linea di massima c'è una spersonalizzazione di quello che è la propria vita privata. Io per esempio vivo in uno di queste cosiddette 19 New Town, ma di fatto dopo oltre un anno conosco pochissime persone, e anche perché questi poi di fatto sono, come dire, quasi dei quartieri dormitorio. Io esco la mattina e rientro la sera spesso tardi, e quindi non c'è moltissima occasione di socialità. Ecco Paolo, ci fermiamo soltanto un minuto che devo lasciare la linea alle informazioni della borsa. Riprendiamo dopo, che mi sembra interessante il discorso, è quello che esattamente volevo capire, come cambia la vita di esseri umani quando quella che era una città, che era un aggregato unico, con tutti i limiti, con tutti i difetti, con tutti gli splendori che possa avere, e ci trova polverizzate in tante altre realtà. Quali sono queste nuove realtà? 800 24 0024. Melog 2.0. Dopo 8 mesi di tenda ci è stata assegnata una casetta, mettendoci insieme alla mia suocera, fuori dall'Aquila, una casa confortevole indubbiamente. E niente, vivere, sì, non ci manca niente, mangiamo, dormiamo, beviamo, stiamo al caldo, però non è questo quello che poi alla fine ci fa stare tranquilli, perché vivere sicuramente non è sopravvivere, e a noi ci manca tanto l'anima. Adesso io non so, è difficile spiegarlo, è difficile capirlo indubbiamente, e niente, a un certo punto ci siamo accorti di questa mancanza, di questo vuoto immenso che avevamo, e me ne sono accorta quando sono venuta qua in centro all'Aquila a passeggiare proprio nelle strade, quelle che erano la nostra vita, la nostra quotidianità, e accorgersi che invece è una città dove tutto era fermo al 6 di aprile, alla notte del terremoto. Quindi le macerie... 800 24 0024, stiamo ricostruendo se possibile attraverso documenti presi in rete. YouTube è pieno di testimonianze, di ricordi, di persone che dicono il loro parere dal giorno del sisma 2 anni fa fino ai giorni nostri. Come avete sentito, una signora che fa parte di quello che viene chiamato il popolo delle carriole, quelli che un giorno hanno preso la carriola e sono andati in centro, dicendo cominciamo a farlo da noi visto che tutto si ferma. Ed devo dire che una tentazione che prende chiunque abbia un muro, una casa, un luogo legato a un suo ricordo, una sua necessità, perché non sempre può essere vista una città soltanto con l'occhio di chi ci andava per turismo, per riposo o nei weekend. Per molti era la prima casa, era il luogo in cui si viveva, era tutto, erano i propri affetti, i propri ricordi, il luogo fisico della ragione di esistere. Perché si fa presto a dire, come molti mi stanno scrivendo, ma se ne vadano, vadano in un'altra parte, si ricomincia la vita. Sì, fino a un certo punto la nostra vita non è a scomparti apribili e chiudibili con tanta leggerezza. Per molti la vita è legata e costretta entro i termini precisi dei propri ricordi, delle proprie affezioni e delle proprie nostalgie. Non è detto tutti hanno questa forza di tagliare e ricominciare. E abbiamo al telefono Bonifacio. Buongiorno. Signor Buongiorno. Bonifacio, mi dica esattamente, di lei so soltanto che si chiama Bonifacio, mi hanno solo scritto questo. Diritto, sì. Lei esattamente di cosa si occupa? Qual è stata la sua sensazione e la sua maniera di reagire a quello che è accaduto 2 anni fa? Guardi, allora, appena è successo il terremoto, come ogni tragedia provoca sicuramente una sorta di scolamento generale. Lei è un cittadino dell'Aquila proprio? Sono un cittadino dell'Aquila, sì. Abito a 2 chilometri da questo storico e anche io ho avuto i miei danni a casa. Le case, penso sappiate, sono state classificate a seguito della agibilità attraverso delle lettere, quindi da A, che è agibile con simili danni non strutturali, fino alla E, che è una casa con seri danni sociali suscettibile di essere abbattuta oppure di subire insomma interventi pesanti di ristrutturazione. Per quanto riguarda la mia situazione, ecco, come dicevo, dopo lo scombussolamento generale c'è una fisiologica letargia che ha preso tutti gli abitanti dell'Aquila. Quindi diciamo che già dall'inizio non c'era proprio una risposta della popolazione a quello che si sta verificando, perché quello che si sta verificando era un qualcosa di cui non potevamo avere conto, dato che sì, la prima reazione è stata diciamo di contarsi i vivi, i feriti, i morti, esatto. E vedere le cose e vivere, sopravvivere all'immediata. Non dimentichiamo che esatto. C'era molto freddo, era anche una situazione climatica. Chi vive a casa non si rende conto cosa significa dormire all'addiaccio in una notte in cui è parecchi gradi sotto zero, improvviso, così. Esatto, perché infatti io come gli altri ci siamo ritrovati fuori, così come stavamo, in pigiama, e poi abbiamo dormito in macchina le prime volte in attesa che montassero le topoli. Io stesso sono stato 7 mesi e mezzo in topoli e diciamo che siamo stati trapiantati subito in un'altra vita, fatta di controlli, di quasi militare, insomma, perché la civile è intervenuta, sicuramente c'era l'urgenza in quel momento di dare un punto alle persone, però la gestione delle tendopoli ha mostrato il vero volto di una gestione emergenziale e verticistica, in deroga a qualsiasi tipo di legge, in deroga anche ai diritti elementari. Sì, questo è il tema del film della Guzzanti ne abbiamo parlato, ma però mi descriva il clima, non perché voglia sviare, perché è un discorso talmente lungo e complicato sulla gestione, sulla protezione civile, sui poteri della protezione civile, sulle tendopoli, sulla carenza di una regolamentazione, un'osservanza di quelle che sono anche nell'ambito delle costruzioni, ricostruzioni, interventi immediati. Le regole non soltanto scritte ma anche quelle del buon senso. Ma oggi cosa fate voi? Detto tutto questo, di cui ci saranno probabilmente altri come spazi popolo, lei giustamente mi ha detto, comunque io faccio parte Popole Gariole è un movimento, l'ho chiamato così, diciamo è la stampa, è un'etichetta che ha affibbiato la stampa ed è forse l'unica etichetta. Beh, però è efficace, vi contraddistingue in maniera efficace. Sono quelli che non vogliono aspettare, prendono la carriola e cominciano a farlo da loro, da soli. Esatto, e diciamo che è partito tutto a febbraio dell'anno scorso, era il io dopo il 10 aprile credo che fosse, il giorno in cui uscirono le intercettazioni dell'inchiesta di Firenze, degli imprenditori che ridevano durante la notte del terremoto, e noi un po' presi. Vi siete giustamente indignati, certo. Era sì, il 14 febbraio, che è un giorno simbolico, San Valentino, abbiamo deciso di vederci in centro, abbiamo creato. Ciao, c'è una cosa, Bonifacio, la possiamo richiamare un attimo? Perché la sento veramente malissimo, è un peccato. Metta giù un attimo il telefono, la proviamo a richiamare. Intanto sentiamo Jacopo, perché sennò è una tortura. Jacopo. Buongiorno, ecco. Buongiorno. Io sono un ragazzo di 24 anni, quindi insomma riporto un po' quelli che sono i disagi dei giovani universitari e soprattutto degli universitari fuori sede. Perché di fatto adesso L'Aquila è una città atomizzata, sparpagliata insomma in questi nuovi 30 insediamenti, mentre di fatto prima il cuore pulsante della città era il centro storico, che era anche il cuore pulsante insomma della vita universitaria. Ora i giovani di fatto sono costretti a vagare, come dicevano prima. Ecco, dell'università cosa c'è oggi? Come funziona? Come è organizzata? L'università, diciamo che attraverso i fondi insomma che sono stati erogati dal Ministero, anche ha avuto qualche difficoltà perché ha dovuto ripensare ai nuovi insediamenti, alle nuove locazioni appunto per tutte le facoltà. Comunque le lezioni sono riprese, gli esami ci sono? Sì, sì, questo sì, con qualche difficoltà insomma per la penuria di fondi, anche per il fatto appunto che chiudendo il centro storico ed essendo crollata anche la facoltà di ingegneria, di fatto l'unica facoltà rimasta in piedi è quella di scienze, quella di medicina, che era appunto nella prossimità del centro della periferia, insomma vicino all'ospedale. Il resto diciamo è stato di fatto danneggiato molto dal terremoto, soprattutto i locali che erano nel centro storico. E adesso appunto i giovani sono costretti a vagare, come dicevano prima altri ascoltatori. E cosa fanno esattamente? Ci descriva un momento tipico del dopo studio, del momento del tempo libero dei giovani aquilani o degli studenti fuori sede che fanno parte comunque del tessuto connettivo della vita giovanile, sono quelli che poi animavano i locali, le birrerie, i pub, quello che c'era la sera, la notte che si vedeva là. Io mi sono reso conto, descrivevo prima insomma la vita del centro storico, ciò che era. Sai perché dico, per paradosso qui a Roma stanno facendo le ordinanze per impedire alla gente di star per strada la sera in allegria, lì c'è penso esattamente il problema contrario probabilmente. Esatto, esatto. Infatti io ho notato soprattutto questo, e molti aquilani adesso rimpiangono il fatto di aver protestato negli anni precedenti il terremoto per schiamazzi notturni, insomma per tutto questo rumore. Lei pensi che mia nonna per esempio non ha dormito per 10 anni perché abitava praticamente a Piazza Duomo sopra ad un locale, quindi si lamentava. Adesso anche lei rimpiange quelle esperienze, il fatto di non poter dormire, perché tutta quella vita, il centro che esplodeva di vita, insomma qualcosa che tutti quanti rimpiangiamo. Ho notato infatti l'amore, cioè mi ha colpito molto l'amore nei confronti del centro storico anche degli studenti fuori sede, non degli aquilani come me, che amano la propria città per ovvi motivi, ma ho notato che le nuove matricole con difficoltà riescono comunque ad innestarsi qui nel tessuto, a vivere la vita aquilana. Beh, perché devono vivere in dei villaggi allargati praticamente adesso. Esatto, in condizioni, cioè è molto difficile. Essere un ragazzo e vivere all'Aquila è molto difficile. Sa, la spensieratezza di un fuorisede in una città d'arte non è equiparabile a nessun'altra gioia giovanile. Esatto. Io lo so perché ho vissuto a Perugia, che è una città d'arte e una città sede universitaria. Io penso la felicità, la gioia, la spensieratezza di queste ragazze e questi ragazzi che venivano dall'Abruzzo, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalle Puglie a studiare a Perugia, avevano degli anni fantastici, lontani dalle famiglie, lontani dai vincoli, e in una città che ti accoglieva in maniera fantastica, perché una città d'arte dà qualcosa in più rispetto a un'altra città, con una popolazione che magari la vive arroccata nel senso di dover mantenere comunque status, modi d'essere, modi di vita, rispettabilità esterne. Beh, il fuorisede era veramente il privilegiato. Se oggi non c'è più la città, è difficile anche la vita, o perlomeno è difficile la serenità post studio anche dello studente. 800 24 0024, ci fermiamo soltanto un minuto per le informazioni del traffico. reconnu quand on s'est reconnu. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des 800 24 00 24, mi scrive Giulia su Facebook. Forse qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dire agli aquilani che la loro città non sarà mai ricostruita com'era e che le macerie saranno un monumento alla memoria di quanto vivevano. Luisa Praier, cosa ne dici di questa lettura? Luisa Praier, ricordo, pianista, docente al Conservatorio dell'Aquila, direttrice artistica del Festival Pietre Cantano. Allora io dico invece di insistere, di rimanere lì, testimoni di quelle cose che vanno assolutamente ritrovate e recuperate, non perché siano degli aquilani, ma perché sono di tutti. E dico questo, un appello ad operare nel segno anche di quello slogan che hanno subito detto i comitati cittadini all'indomani del terremoto: l'Aquila com'era, dov'era. E quindi anche tutti quelli che generosamente ancora stanno facendo, ancora donano e ancora investono risorse per aiutare l'Aquila, che agiscano sempre in questo senso, perché abbiamo bisogno prima di ritrovare quel che abbiamo perso e poi semmai di accogliere cose nuove. Mi riferisco anche a delle iniziative che sono state prese rispetto a, insomma, anche Archistar, che si vedono adesso all'Aquila, che fanno progetti senza dubbio belli, ma che hanno poco senso in una città in cui la cattedrale di Collemaggio è per metà distrutta, in cui la Basilica di San Domenico è completamente distrutta, eccetera. Quindi i soldi che ci vogliono per certe volte per costruire una struttura nuova, bella, moderna, eccetera, sono gli stessi che ci permetterebbero di recuperare uno di questi tesori del nostro patrimonio, che sono, come diceva. Ma tu come la pensi, Luisa, questo è quello che delle intenzioni sarebbe bene che accadesse, ma tu che conosci bene la città, che la frequenti, soprattutto che hai maneggiato le corde sottili di qualcosa di impalpabile che apparentemente non fa parte delle categorie del profitto, che è la musica, portavi la musica nei piccoli paesi, nei posti d'arte, tutto. Sei ottimista o sei pessimista? Beh, non ti nascondo che un certo senso di sconforto c'è a vedere tutto questo operare nel non senso, lo chiamo un po' così, no? Operare nel non senso, insomma, vedere una scuola che viene donata dove la scuola invece non è crollata e devastare un'area verde per costruirci questa nuova scuola, ecco, questo sconforta molto. Tuttavia siamo chiamati a rispondere di questo di fronte alle generazioni future, quindi al di là dello sconforto abbiamo il dovere di resistere a questo sconforto e di testimoniare la nostra volontà, quindi al di là dell'evidenza comunque di sperare. Mi ero interrotto con Paolo Della Ventura, che è giornalista del capoluogo d'Abruzzo.it. Tu mi avevi detto, Paolo, prima, sei stato il primo a introdurre l'argomento della frammentazione, una città che ormai sono tanti, tanti luoghi con dei loro centri autonomi, quindi è difficile sentire il senso comune di appartenenza a una città, e questo porta e incentiva il fatto che si dimentichi presto, si possa dimenticare l'idea e il valore di un centro storico. Sì, diciamo, come stavo dicendo prima dell'interruzione, due anni dopo c'è un fortissimo senso di spersonalizzazione della propria identità, che in qualche modo stiamo cercando di tenere, diciamo, unito con il filo da una parte della memoria. Visto Chi sono i conservatori dell'identità, secondo te? Se volessi tu classificarli, gli anziani, le persone di mezza età, chi si sta muovendo per dire ma ricordatevi, qui c'era questo, c'era quell'altro? Perché se mancano le prove concrete e tangibili di un'identità, l'identità si polverizza. Sì, l'identità si polverizza, e i conservatori, come li chiamate tu, tra virgolette, dell'identità sono un po' tutti quelli che, innamorati della loro città, cercano di mantenerne vivo il ricordo, come stavo dicendo prima, da una parte, no, il senso della memoria, dall'altra parte quella di una speranza che pervicacemente è rimasta in tantissimi di voler rivedere la propria città e di voler rivivere la propria città. Sentiamo Mario un attimo, solo un attimo. Mario, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo intervenire e riportare un attimo ribadire anche quello che stavate dicendo di questa dispersione sociale che nella città